chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Perché ridi? Domenica d'agosto, che caldo fa. Ah, ecco perché ridevi. Beati voi, cari, che siete lì in spiaggia, al mare, oppure state andando in bicicletta a raggiungere delle spiagge con i vostri cagnolini. A riposarvi e ricrearvi. Tra l'altro, sta cosa della ricreazione, sai che c'è anche nei cani, che hanno bisogno di ricrearsi. Quindi bisogna... È una rigenerazione. Quindi anche gli animali vanno in vacanza? Oddio, per poveracci, detta così mi sembra che le vacanze nostre per gli animali sono un incubo. Ma no, non è detto. Comunque anche gli animali hanno bisogno di vacanze, sì, ma sai, anche nella routine quotidiana, questo grande bisogno di vacanze nostro, ci insegnano, gli animali ci insegnano, dipende dal fatto che spesso abbiamo uno stile di vita che purtroppo non ci corrisponde, no? In che senso? Ti seguo. Sai, quando la gente dice sono stressato, lavoro tutto il tempo, arrivo a casa e cucino. Poi sai, e tu dici che questo non ci corrisponda? Secondo me la nevrosi è la cosa che corrisponde di più all'uomo per potersi lamentare. Tu dici ha bisogno di questo. Assolutamente per poter... sì, se no. No, sai, però quando uno si dice ma che cosa devo fare per essere felice? No? Chiedimi se sono felice. No? Diciamo, chiedimi come posso essere felice. Bravissimo. Allora, gli animali ce la possono insegnare questo, lo sai. Certo. Perché questo? Perché loro non sono condizionati dalle mode, dalla pubblicità, dalla cultura, dalle stagioni, dal clima, dalle vacanze. No, quello sono condizionati dalle stagioni. Ah, esattamente, sì? Ci sono dei ritmici cardiani. Però insomma è interessante questa cosa, no? Ti ricordi il progetto Animalness, no? Che sì, ho lanciato questo serve proprio a prendere le cose di cui noi abbiamo bisogno, averne uno specchietto facile, maneggevole, no? Quindi perché tu vorresti dirmi che anche gli animali hanno dei bisogni, hanno bisogno di staccare come noi? Assolutamente. Però cioè, loro hanno bisogno quotidianamente di staccare o andare in vacanza? Hanno bisogno come noi di uno stile di vita sano, no? Però quando noi diciamo stile di vita sano non sappiamo mai che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, perché siamo condizionati dalle mode, da queste cose qua. Gli animali però, se noi li osserviamo nella loro natura, i mammiferi sociali, che cos'è che fanno per stare bene? Allora io mi sono divertito, ho fatto una ricerca, no? Anche sui bisogni umani, perché ci cose rispondono molto, e ho suddiviso i bisogni di cui noi abbiamo bisogno, esatto, in quattro categorie, che sono quella del corpo, i bisogni del cuore, i bisogni della mente, i bisogni dello spirito. Da quale partiamo? Qual è il primo bisogno? Il bisogno principale qual è? Sarà quello del corpo? È quelli legati alla sopravvivenza. Quindi mangiare, bere. Però non è soltanto mi sazio, ma è mangio bene. Cioè, sai quando con i cani ci chiede, tra l'altro oggi avremo un ospite, no? È meglio la crocchetta o è meglio il cibo naturale? Esatto. Nel cibo naturale che cosa devo mangiare? Allora bisogna fare riferimento all'etologia dell'animale, perché non vanno bene i nostri avanzi, no? Così come sarebbe preferibile la cucina naturale. E la stessa cosa per noi, che cosa ci fa bene, che cosa non ci fa bene. Allora guarda, a me fa bene adesso partire, andare alla Hawaii un mesetto, per esempio, no? proprio te la devo dire così. Ma pensaci un po', perché cosa succede in vacanza? Ci si rilassa, tendi ad alimentarti, ad avere tempo di cucinarti qualcosa. Sì. Fai sport, insomma. Insomma, c'è gente che nuota, fa windsurf, fa le passeggiate. Io solamente faccio lo sport quello che si sta spiaggiando. No, agosto sto spiaggiata su uno scoglio. Quello è uno sport fantastico. Ecco, vedi, ci si riposa, ci si rigenera, no? Attraverso Celentano, mi stai prendendo in giro su questa cosa che è molto importante. No, cioè, a casa vogliono sapere come rendere felici gli animali. Io sono un animale. Mi eri bello. Hai detto. Non si può dire quello che diceva Buffy, che stavo per dire perché che gli do la pacchetta sulla testa. Ma non coronata. Esatto. Senti una cosa, torniamo a bomba. Parlavamo dei quattro bisogni: corpo, cuore, mente, spirito. Vedi, quando si parla di corpo, no? per i nostri amici, importantissimo per esempio il movimento. Cioè, sai quando uno dice ho il cane piccolo, me lo tengo in casa, non lo faccio uscire, gli faccio fare pipì sulle traversine, e non gli faccio fare sport, quindi praticamente dorme e me lo metto in braccio a fare le cose. Ma guarda, ma se dovessi conoscere una tipa così o un tipo così, ma porca miseria, guarda, mi farebbe così arrabbiare. Così arrabbiare, che però, roba, perché dovete sapere, ragazzi, che guarda, no, la nostra Rositina puoi anche lasciare, tende, no, a questo modello, no, con i suoi cagnolini. Tendo al modello pigro, i cani hanno preso da me. Evidentemente sì, però sai, è importante quindi il movimento. Tu pensa per esempio ai cani che sono in canile, no? Che difficilmente no, certo. quanto i volontari oggi si danno da fare per pulire i box, dargli da mangiare, ma soprattutto anche portarli fuori, farli certo. camminare, farli anche socializzare. Il gioco per esempio è un'attività che coinvolge tutte e quattro queste dimensioni qua. Il cuore? Eh beh, il cuore lo dice la parola stessa, sono i sentimenti, le emozioni, l'affettività, il fatto di sentirsi parte di un gruppo. Il cane in giardino non dovrebbe essere lasciato da solo tutta la giornata con la scusa che è libero, è una cazzata. È un animale sociale, men che meno sai alla catena, no? Però sai, bisogni del cuore sono anche bisogni del divertimento, cioè fatte 100 le ore che noi passiamo con un cane, quanto tempo passiamo a divertirci con lui? Mm-hmm. Bisogna giocarci con i cani, non soltanto portarli a spasso e via dicendo. E la poi, monte? Come comunichiamo con loro? Questa è un'altra cosa importante, dovremmo dedicare del tempo, magari nelle prossime trasmissioni, a parlare di come comunicano i cani. I cani hanno una faccia, una postura, le espressioni, i segnali calmanti, che sono dei segnali che servono a prevenire i conflitti. I cani tra di loro in natura difficilmente litigano così come quando litigano i cani di proprietà tenuti al guinzaglio, perché hanno un sistema sofisticato, no, di comunicazione che andrebbe esplorato. Però basti pensare che una delle cose che ci può legare al cane in modo comunicativo è l'empatia la si fa con una cosa che si chiama ricalco, mirroring, cioè il rispecchio del cane. Quindi scusami, io pensavo che solamente le scimmie fossero quelle che imitavano magari i nostri gesti, si imitavano fra di loro, tutti gli animali. No, gli animali, tu mi dici che i cavalli, il cane, i gatti tra di loro, tutti ci osservano e ricalco vuol dire rifare una determinata movimento che vedono fare a noi. Sì, o che vedono fare fra di loro. È una branca di ricalco, è un'imitazione, no? Però se tu ci fai caso, quando è che vedi due cani o due persone, un cane e una persona in armonia? Sembrano muoversi con lo stesso ritmo, sembrano fare le stesse cose, sembrano invertire i ruoli, per esempio nel gioco, uno fa la preda, l'altro il predatore. Quando uno ci sta al gioco, no? Quando ci stai al gioco, stai ricalcando. Quindi io che ho sempre detto che i miei due cagnolini sono tutti e due assieme me, perché uno ha delle attitudini mie e uno ce l'ha completamente le altre, però le hanno. Un po' hanno preso anche delle abitudini, però il ricalco è riferito soprattutto a quello che vedi in quel momento. Quindi quando uno deve presentare un cane ad un altro, sai, quando arrivano gli amici con un loro cane, ho adottato un nuovo cane dal canile e arriva in casa, bisogna farli conoscere un luogo nuovo, ma camminare nella stessa direzione è qualcosa che permette loro di percepirsi come alleati. Fantastico. Poi ci sono i bisogni della mente, no? I bisogni della mente sono relativi alla scoperta, all'apprendimento, alla varietà. Per esempio il cane che scava le buche in giardino, no? Spesso è un cane che fa poco. È un cane che non esce da quel giardino. Quindi una nevrosi diventa. Cioè, ma poi pensiamo a noi stessi, se fossimo noi il cane, lasciati in giardino per ore, tristezza, o per giorni, o tutta la vita, e qualcosa lo dobbiamo pure fare. Cioè, uno non se la può prendere con un cane in giardino perché il cane scava le buche, se quel cane non esce regolarmente. Esce regolarmente significa un paio d'ore al giorno. Quindi stesso vale se il cane si lecca in continuazione le zampe davanti, oppure se si rincorre la coda. Tutte cose che però devono essere fatte troppo frequentemente per decidere che sia una nevrosi quella. Beh, se il cane si rincorre la coda una volta ogni tanto non è un grosso problema, ma se lo fa spesso, continuamente, è un sintomo forte di disagio, che i suoi bisogni sono frustrati. Senti, l'ultimo bisogno dello spirito, che è quello che mi affascina di più? Sì, questo è particolare. Allora, ti dico soltanto, c'è un famoso maestro di meditazione che si chiama Eckhart Tolle, quello l'autore del potere di adesso, che lui dice: ho vissuto con molti maestri zen e tutti loro erano gatti. Ah sì, me l'avevi detto. Noi non possiamo dire che gli animali, abbiamo intervistato Padre Mariano ci dice che anche gli animali fanno parte del creato, quindi non sono staccati da Dio, no? Ma c'è una cosa molto interessante da questo punto di vista. C'è una ricercatrice che si chiama Jane Goodall, è quella che si occupa degli scimpanzé, non so se è famosissima. Lei è famosissima perché tempo fa, quando aveva cominciato la sua ricerca, fermati, andiamo in pubblicità e poi me lo spieghi. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. ecco Angelo, stavamo parlando appunto dei bisogni degli animali che poi sono anche sì. i bisogni degli esseri umani. Tu li avevi divisi in quattro categorie: corpo, cuore, mente e spirito. E spirito, insomma, dicevamo prima che c'è questa Jane Goodall che già aveva attribuito le emozioni agli scimpanzé, mm-hmm. no? Il suo professore gli diceva: ascolta Jane, devi stare attenta a dare un nome a questi scimpanzé, perché sennò i tuoi colleghi prima usavano i numeri, figurati. Certo. Allora lì, quando vedi che qualcuno è in uno stato affettivo con qualcun altro, perché lei aveva visto da donna delle cose che i suoi colleghi maschi non vedevano, quasi vedevano tutti la dominanza, l'aggressività, no? Mm-hmm. Lei invece vedeva affettività, empatia, legami, e dice: allora, se devi dire, devi scrivere così nella tua relazione, se io dovessi vedere un essere umano al posto di questo scimpanzé, direi che non è stato affettivo, empatico, di protezione, d'amore nei confronti mm-hmm. dell'altro. Adesso lei poi l'ha fatto con la spiritualità: se dovessi vedere un essere umano al posto di questo scimpanzé, direi che è in contemplazione. Ah sì? Fantastico. Ecco, sì, quindi dobbiamo interrogarci su queste cose. Ci sono molti animali che richiamano allo spirito. Beh, però siccome questo argomento è molto carico di un sacco di domande che io ti vorrei fare, magari una volta approfondiremo meglio tutta la parte spirituale legata agli animali, perché è la parte più che sicuramente incuriosisce, incuriosisce. Di più. Ma torniamo alla terra, al corpo, all'alimentazione, che prima dicevamo avremmo avuto un ospite speciale da questo punto di vista, perché abbiamo con noi in linea il dottor David Bettio, che è un esperto di alimentazione. C'è, dottore? Sì, sono qui. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Allora, senta, ma è meglio crocchetto o è meglio cucina naturale? Allora, intanto, prima di tutto, si tratta di una scelta. Una scelta che tiene in considerazione, prima di tutto, la salute del cane e poi anche, come dire, la gestione del cane. Sì. Ovviamente la scelta migliore è una scelta di una dieta casalinga, uh-huh. fatta in un certo modo, pensata per il cane, e però per chi dovesse avere delle problematiche di gestione, perché viviamo tutti una vita abbastanza frenetica, intensa, esatto, e frenetica, ci si può anche appoggiare dei cibi industriali che però siano di un certo tipo. Ecco, allora guardate, noi qui nel nostro centro consigliamo, allora come prima scelta sempre una dieta casalinga, poi come seconda scelta una dieta industriale. Adesso in commercio ci sono delle linee di cibi surgelati che sono completi, che sono bilanciati. Ma che sono specifici per cani o che surgelati che possiamo mangiare anche noi e che possiamo... No, questi preparati industriali sono specifici per i cani per i gatti. Ah. E però poi ci sono anche ovviamente delle scatolette che sono i cibi industriali classici e la crocchetta che è il cibo. Ma questi ma questi surgelati si trovano nei supermercati tradizionali oppure No. Allora si trovano in qualche negozietto specializzato che ha fatto una scelta di un certo tipo, okay. Perché nelle grandi catene di distribuzione anche dei pet shop non ci sono, iniziano adesso. Un appello ai negozianti che devono stare attenti, cioè, ma magari sarebbero avanti, no? Con questa cosa qua. Certo, iniziano adesso, molti proprietari iniziano ad avere attenzione a quello che mangia il cane in base al suo etogramma alimentare, e quindi bisogna considerare che il cane e il gatto sono... Infatti prima lei diceva dieta casalinga, perché questa è un'altra distinzione importante, perché quando uno dice dieta casalinga allora dice gli do gli avanzi, mentre lei prima ha detto specifica per il cane, che quindi non sono gli avanzi di quello che mi avanza gli do, giusto? Assolutamente no, bisogna essere sempre rispettosi diciamo dell'etologia evolutiva del cane, e quindi il cane è un carnivoro opportunista, il gatto è un carnivoro stretto, e quindi deve avere una dieta adeguata dal punto di vista fisiologico, biologico, ma anche etico. Scusi dottore, posso chiedere una cosa? Perché io sono molto ignorante. Cosa vuol dire carnivoro opportunista? Beh, allora, il cane classicamente mangia delle carcasse, quindi sono le prede. Però ci sono particolari momenti della stagione dove molte prede non sono a disposizione, e quindi può anche nutrirsi di altre cose. nel nostro immaginario c'è il cane che sotterra l'osso e se lo va a dissotterrare nei momenti di bisogno, oppure mangiano delle carcasse di prede già in stato putrefattivo, oppure possono vivere temporaneamente anche di alcune bacche, alcuni cereali che possono far parte, e vegetali che possono far parte di un particolare momento della loro alimentazione, mentre il gatto si ciba necessariamente di prede fresche, a differenza del cane che ha uno stomaco putrefattivo, fermentativo, e può mangiare le carcasse in giro. Difatti noi vediamo che i cani possono, cioè, raccolgono tutto quello che trovano per strada. Un grande preoccupazione dei proprietari, ma questo quindi tradotto in pratica, no? Cioè, se io nella ciotola del mio cane, che cosa è meglio che voglio fare cucina casalinga, no? Che cosa è meglio che gli metta? Allora, ci sono diversi tipi di approcci che dipendono intanto dalla tipologia del cane, se è un cane sano, se è un cane che presenta delle patologie particolari, delle esigenze particolari. Allora, prima parlavate degli avanzi, i cani non devono essere alimentati con gli avanzi, ma devono essere alimentati con la fonte di proteina nobile che è la carne. Nella dieta casalinga deve essere prevista la carne, che va appena scottata o addirittura cruda, devono essere previste delle ossa polpose, che non sono l'osso, il femore, il ginocchio di bovino come solitamente si crede, ma di solito sono le ali di pollo, le teste di coniglio, le carcasse di coniglio, quelle sono ossa polpose, poi una fonte di fibra, quindi sono diverse tipologie di verdure, possono essere presenti anche un po' di frutta, e soprattutto non ci devono essere i cereali, o anche una quota minima, ma deve essere davvero minima, massimo il 5-7% della razione giornaliera, che diventa davvero minima, a confronto invece di prodotti industriali dove la quota di cereali è davvero molto elevata. Ma quando lei dice cereali, significa che una persona a casa cosa fa? Cuoce il riso? Cuocere il riso bianco, lo lava bene giù dagli amidi, può cuocere, classicamente i migliori cereali sono il miglio, il farro e l'avena, poi si può utilizzare anche il riso. Ma noi gli diamo la quinoa, la quinoa non va bene quindi? Sì, però insomma già ci sono anche dei cereali non così, diciamo, esotici, perché sono entrati nella nostra alimentazione prima di essere entrati nell'alimentazione degli animali, quindi si può fare anche quello, però possiamo utilizzare anche dei cereali locali. E quando però prima non sono necessari nell'alimentazione del gatto e men che meno del cane, nell'alimentazione del cane men che meno del gatto, non ne ha proprio bisogno il gatto di cereali. Quando prima lei diceva alcuni tipi di verdure, quali sono? Sì. Beh, allora guardate, potete prendere le verdure a foglia verde, quindi l'insalata, le diete, gli spinaci. Eventualmente, se uno vive in una bella campagna, in montagna, prende anche un ciuffo di erba del prato dove non sono stati fatti i trattamenti e gliela può tagliare nella ciotola, perché tanto i cani si servono da soli e sanno anche selezionare l'erba, quali tipi di erbe servono in qual tipo di momento. Poi ci sono altri tipi di verdure, tipo la zucca, per le problematiche gastroenteriche va benissimo. E poi particolari esigenze che presentano i cani, proprio si possono utilizzare ad esempio le carote grattugiate, le zucchine grattugiate o anche la frutta, la mela grattugiata, e vanno sempre grattugiate, perché i cani, non essendo in grado di digerire la cellulosa, noi in questo modo grattugiandola aiutiamo il loro assorbimento. Un po' come quando noi siamo ammalati che non prendiamo la mela croccante, ma ci fanno la mela grattugiata o la mela cotta. Sì, madonna, quanta mela cotta che ho preso io. Quindi un'altra cosa, quando il cane mangia l'erba si dice che è per purgarsi, perché ci sono molte persone che ancora dicono: oddio, il mio cane mangia l'erba e poi vomita, ma credo che lo faccia apposta per questo, giusto? Certo, spesso succede quando l'alimentazione non è adeguata e si accumulano delle tossine che in qualche modo l'animale deve espellere, e le espelle o con il vomito o con le feci, spesso fanno diarrea. Quindi anche qui bisogna capire che non è in realtà una malattia la gastrite, ma è un sintomo indotto da un'alimentazione scorretta. Oppure anche le forme gastrointestinali. Benissimo, qua si apre un altro argomento che ci vorrà altre puntate. Sì, secondo me. Cioè, ci stiamo preparando per fare anni e anni di questa trasmissione. Sì, stiamo praticamente mettendo all'angolo Radio 24 che ci deve assumere per fare un vitalizio. Grazie, dottore. Grazie, dottore. Arrivederci. Spero di esservi stato d'aiuto. Sì, moltissimo. Almeno io sicuramente ho scoperto. Adesso vado a casa, faccio mente locale e ho scoperto altre nuove cose interessantissime. Curiosate nel web sotto l'acronimo BARF e vi si aprirà un mondo. BARF, infatti, è proprio di BARF, quello che io vorrei parlare. Io la dovrei invitare per un'altra trasmissione. So che esce un suo libro? No, non esce un mio libro, esce in realtà la prima traduzione in italiano di un libro di una collega tedesca dove curo la prefazione. Perché in realtà libri in italiano sull'alimentazione a crudo non ci sono ancora, gli unici riferimenti sono nel web, e uscirà questo libro di una collana curata dal collega Stefano Cattinelli e io curo la prefazione. Benissimo, aspettiamo con ansia. Grazie, dottore. Certo. Grazie, arrivederci, dottore. A voi, buona giornata. Interessantissimo. Che ne pensi di fantastico questa roba? Alimentazione. I miei cani che sono piccini, mi fa un po' strano dargli da mangiare queste cose qui, però proviamo. Come noi siamo quello che mangiamo, anche i cani sono quello che mangiano. Quindi guarda quanto mangio bene io, che un po' di gnocca che sono. Che gnocca! E detto questo, ci vediamo fra poco su Radio 24. Chiedimi se sono felice con Angelo Vai e Rosita Celentano. Scriveteci, chiedimi se sono felice @radio24.it. State ascoltando un programma offerto da... Accanto ad ogni cucciolo felice c'è un amico con la maiuscola, Arcaplanet, www.arcaplanet.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ecco, sì, tieni le Vaira, continua a tenere le cuffie così, tipo così una in fronte e una dietro. Ma io ho un orecchio anche in fronte. Senti, eh? Ma per caso il fatto che tutte le volte che mi dovete ripetere le cose 700 volte è sintomo di stress o di demenza senile? Diciamo stress. Ti ringrazio di questa pausetta di riflessione. Sai che gli animali si stressano, è uno dei sintomi di stress, è avere difficoltà mnemoniche, di cognitive. Mnemoniche? Mnemoniche. Potrei spiegare cos'è mnemoniche? Mnemoniche. Cos'è? Di memoria. Ah, ok, grazie, ti ringrazio. Giusto per questo proposito, vogliamo sentire che cosa ti dice la dottoressa Lorella Notari per quanto riguarda lo stress sugli animali. Lorella, tra l'altro, è un medico veterinario comportamentalista, quindi esperto proprio di questo argomento. Lorella è in linea? Buongiorno. Senta, ma anche Rosita è stressata, che possiamo fare? Sì. Lorella, buongiorno, io sono stressatissima. Una bella passeggiata, direi. Vedi? Esatto, adesso la faccio una bella passeggiata, sì, ma sono gli altri che mi stressano solitamente. Ecco, allora. No, ma quindi voglio dire, anche i cani si stressano? Certo, purtroppo sì. I fattori di stress che colpiscono noi in qualche modo colpiscono anche loro, quelli esterni e quelli interni. Qual è la differenza tra esterni e interni, no? Per far vuol capire dire che se io ho mal di testa, mal di pancia, è comunque un fattore di stress, perché non sono al meglio delle mie facoltà e quindi qualsiasi cosa arrivi dall'esterno, per esempio se io ho mal di testa e qualcuno viene e mi disturba, reagisco magari male perché non voglio essere disturbata, perché non ho voglia di interagire. Mm-mm. Questo capita anche ai cani, bisogna sempre tenere conto che potrebbero avere qualche problemino loro che li fa reagire in un modo eccessivo, per esempio, magari improvvisamente. Sì, magari li accarezzi e non sai che hanno un dolore, come fa il mio chihuahua che lo tocchiamo ogni tanto fa degli scatti. Io immagino che ci sta ascoltando, no? Che magari guarda il suo cane e dice: ma oddio, come faccio a capire se è stressato? Cioè, ci sono dei modi che noi possiamo consigliare per capire se il cane è stressato? Ci sono delle manifestazioni anche fisiche che i cani possono avere, no? Che possono essere molto eclatanti, molto evidenti, quindi è chiaro che se vedo un cane che ha un respiro affannoso, che trema, capisco che non è in una condizione positiva. Poi però ci sono dei modi più sottili di mostrare lo stress, che sono tutti quei modi che potremmo paragonare a un cercare di sottrarsi, no? Per esempio distogliere lo sguardo, farsi piccoli, cercare di allontanarsi. Ci sono tanti modi di dimostrare lo stress e dipendono anche dalle caratteristiche dell'animale, perché se un animale già tendenzialmente ha una personalità più reattiva, sì, potrebbe anche reagire aggredendo. Addirittura, no? Quindi quando un cane ha una personalità reattiva ed è stressato, tenderebbe a appunto reagire più facilmente, in modo eccessivo. Certo, potrebbe anche reagire per allontanare qualcosa che lo sta disturbando in maniera aggressiva, oppure una personalità più insicura potrebbe cercare di sottrarsi. Infatti, tipo lei, il mio barboncino, ogni tanto prendo e si va a nascondere sotto il divano. Si isolano anche, no? Sì, magari di isolarsi, di evitare di evitare il contatto in maniera eclatante, come nascondersi sotto il divano, o magari anche semplicemente cercando di darci dei segnali, girare lo sguardo. Ma lo stress anche sul cane può influire, per esempio, sull'aver più o meno voglia di mangiare, oppure quello no? Assolutamente sì. Quindi inappetenza o addirittura magari non soltanto inappetenza, ma... Se un cane mangia troppo, può essere anche quello? Diciamo che il confine tra quello che può essere una forma di ansia e una forma di stress è molto difficile da tracciare, anche perché sono due cose che possono anche essere la stessa cosa. Per cui c'è chi, il soggetto che in una situazione di stress evita anche di mangiare, anche se è un goloso, e un altro che invece è compulsivo. Dipende dalle situazioni. In generale, se abbiamo un cane molto agitato e spaventato, probabilmente non mangerà. Io c'ho un cane inappetente, perché secondo me si è spaventato da cucciola, che per farla mangiare, una volta svezzata dalla madre, stava 2 ore chiusa in una stanza da sola. Questa è stata una brutta esperienza. Difatti mi dicevano: guarda, tu la devi lasciare lì da sola anche 2 ore, mollagli la ciotola perché lei tende a non mangiare. Io ho provato la prima volta, ho detto no, comunque non mi piace sto metodo, però ci ho messo tanto poi a... No, ma quello che io mi chiedo, tornando sulla questione dello stress, se una persona è preoccupata dal fatto che il proprio cane possa essere stressato, cioè, che cosa deve fare per evitare che si stressi? Cioè, che ne so, uno stile di vita particolare, deve stare attento a... A me vengono in mente, per esempio, i bambini, no? Perché spesso tendiamo a proteggere i bambini dal cane, ma non ci rendiamo conto che spesso la vittima è il cane, non il bambino. Ma i bambini, purtroppo, essendo molto imprevedibili, sono spesso una fonte di stress, perché purtroppo tutto ciò che è imprevedibile e incontrollabile è fonte di stress, no? Come dire, se io so che cosa succede, anche se quella cosa che sta per succedere non è bella, se so dove inizia e dove finisce, mi posso adattare. Coi bambini qualche volta può essere un problema, e soprattutto per cani, per esempio cani molto piccoli, che si sentono anche un po' più fragili, con un bambino molto invadente, non controllato dai genitori, possono essere una situazione di stress quasi costante in casa, e quindi bisognerebbe proteggere, cioè non solo proteggere i bambini dal cane, perché se il cane è molto stressato magari il bambino lo disturba, potrebbe reagire, ma anche il cane dal bambino, quindi cercare di riuscire a farli convivere senza che il cane si senta continuamente bersagliato dalle attenzioni per lui imprevedibili di questo bambino, soprattutto se è molto piccolo il bambino, che non può controllarsi, non può neanche leggere i segnali più chiari di avvertimento del cane. Quali altre situazioni potrebbero stressare il cane? Rumori? Rumori forti? Allora, diciamo che purtroppo la sensibilità ai rumori ha anche uno sfondo genetico, no? Cioè i cani che purtroppo sono sensibili ai rumori tendono a stressarsi molto più facilmente degli altri, perché anche biologicamente il rumore facilmente si associa a qualcosa, no? Quindi un rumore di cui il cane ha già istintivamente paura può manifestarsi insieme, non lo so, a un altro stimolo visivo o all'avvento di qualche persona, eccetera, e quindi poi il cane può a catena formare tante paure che partono dalla paura dei rumori, purtroppo. Altre cose? Purtroppo ce ne sono tante. Tantissime. Di cose, per esempio un cane che non è stato ben socializzato alle persone da piccolo può avere paura delle persone che non conosce, e quindi ogni persona nuova è una fonte di stress. Per cui può essere un bombardamento continuo. Poi dobbiamo anche considerare che ci sono quegli stress che non sono solo dovuti alle cose che al cane fanno paura, ma anche alle deprivazioni. Per esempio, se un cane non fa il necessario esercizio fisico e mentale, avrà una situazione di stress dovuta alla deprivazione. Quindi una vita povera, poco stimolata, poche attività stressano il cane. Esattamente. E potremmo avere delle manifestazioni le più diverse, che possono appunto andare anche dalla, per esempio, anche autotraumatismo, quindi leccarsi ossessivamente le zampe fino a farsi male, inseguirsi la coda, cose di questo tipo, oppure altre manifestazioni come per esempio anche la depressione. Sì, io ricordo. Negli animali. Vedi? No, io ricordo, questo accadeva per fortuna alla mia vista tanto tempo fa, però mi ricordo i cani legati alla catena che si rincorrevano la coda, spesso si leccavano le zampe, e il proprietario diceva: vedi, è un cane stupido. In realtà non era stupido il cane, ma è che veniva deprivato, no? Dicevi tu, Lorella. Esatto. Cioè non faceva la vita che avrebbe dovuto fare. Esatto, ci sono dei bisogni fondamentali che bisogna soddisfare, che non sono solo quelli di dargli da mangiare e proteggerli dalle intemperie, ma sono anche quelli di fargli fare le cose normali. La vita da cane per bene, però bene. Vedi, è qua i bisogni fondamentali, c'è bisogno che dedichiamo una puntata. Lorella, grazie infinite, sei stata preziosissima. Grazie a voi. Ciao, ciao, a presto. Ciao, grazie. Ciao. Però vedi com'è quello che stressa i cani è simile a quello che stressa noi. Cioè ci sono sempre dei paralleli, no? Cioè mammiferi sociali, possiamo veramente rivolgerci a loro per capirci meglio. Sì, difatti tu non sei stressato, ma probabilmente perché c'è una compagna che allevia. Guarda, è adorabile. No, veramente, cioè, sì. Cioè proprio mi facilita la vita. Ti dico che fortuna. Mi capisce al volo. Fortuna, uomo fortunato. Uomo molto fortunato. Senti, visto che sono un uomo fortunato, ti ho sentito parlare tante volte a te di stress, fra l'altro, prima di parlare con la dottoressa Notari. E a dirti la verità sono anche felice di poterne parlare finalmente in radio, perché secondo me la maggior parte della gente non associa mai lo stress all'animale. Se sì, tu chiedi, tutti li vedono lì, i cavalli, le mucche pascolare, il cane al guinzaglio, fa la passeggiata, perché mai dovrebbe essere stressato? Oh, bravissimo. Invece dovete sapere, cari ascoltatori, no, ma non solo, cioè quello che noi sappiamo sullo stress negli esseri umani lo sappiamo, lo sappiamo grazie al fatto che ci siamo studiati gli animali. Certo. E quindi insomma, però io, se sei d'accordo, da educatore cinofilo, no? Quindi lo stress è una delle cose che noi subito, sulle quali subito dobbiamo andare a mettere mani, perché la maggior parte dei problemi di comportamento educativi derivano dal fatto che gli animali sono stressati. Quindi farei un elenco. Sì, in cause. Sintomi e soluzioni, facciamo così, le cause dello stress per gli animali. Causa dello stress, cioè significa che cos'è che fa, che causa lo stress. Allora, per esempio, l'arrivo di un neonato, la morte di qualcuno, la perdita di qualcuno, no? Quindi lutti. Quindi quando vediamo quelle fotografie dei cani disperati che aspettano che ritorni il padrone piuttosto che sulla tomba, sono realissime. Perfetto, ma anche la morte non soltanto di un proprietario, ma anche di un cane all'interno della famiglia. I traslochi, essere lasciati in pensione, dolori. Quindi quando il cane per esempio ha il dolore all'orecchio, il dolore alla zampa, è un sintomo di stress. Cosa vuol dire questo? Che può avere delle reazioni esagerate, no? Certo. Come per esempio ringhiare, no? Cose del genere, dovuto allo stress. Malattie. Calore femminile. Sì, esatto. Che ora abbiamo la canina in calore, difatti la vedo stranitissima. Vedi, infatti, quando le femmine vanno in calore si stressano, ma si stressano anche i maschi, no? Se noi ne sappiamo qualcosa con il nostro amico Gian-Pierre. La carenza di sonno, le minacce e le inibizioni, quando i proprietari inibiscono il cane, lo puniscono, questo crea stress. L'addestramento basato sulla dominanza, gli strattoni e il collare a strangolo che tira, questo stressa il cane. La perdita di pazienza, i giochi sfrenati. Io avevo dei clienti che tornavano a casa dall'ufficio e facevano giocare al frisbee continuamente il cane, corse sfrenate. I cani. I bambini, l'abbiamo detto, il disordine in casa, no? Quando i bambini, abbiamo detto con la Lorella prima di parlare del fatto che i bambini certo. No, perché si tende sempre a voler proteggere il bambino dal cane, ma mai il cane dal bambino, che esatto. Se si proteggesse il cane dal bambino, il cane non reagirebbe mai, per esempio. La visita dal veterinario, la solitudine, il sovraffollamento, quando uno si prende, vuole salvare tanti cani dalla strada e si riempie casa di cani, quei cani purtroppo fanno una vita di inferno. Però poi ci sono anche i sintomi, per esempio il sudore dei cuscinetti plantari, quando si va dal veterinario, che si vedono le impronte del cane, per esempio. Oppure c'è il mio che si fa proprio la popò addosso. Vedi, eccessive cure del corpo, che poi vedi, qua dobbiamo approfondire un attimo su questa cosa. Comunque, monta, quando i cani si montano tra di loro, potrebbe essere per stress, non per sesso. Eccessive cure del corpo, la pipì e la popò fatta in posti e nei momenti peggiori. Il fatto che distruggono anche i giocattoli, esatto, quando li distruggono in modo compulsivo. Esattamente. Perdita di pelo, apatia, perdita di memoria, prima parlavamo delle capacità mnemoniche. Anche quando viene la forforina improvvisamente. Bravissima. Sul pelo. Facilissimo da vedere sui cani dal mantello nero. Quindi quando io vedo un cane che ha la forfora, gli può venire anche in due minuti in momenti stressati. Non è l'alimentazione o cosa del genere. Potrebbe, ma quindi anche la soluzione? E la soluzione sono due. O uno identifica le cause dello stress e le rimuove, che il programma solito di stress, ma io tempo fa mi sono chiesto, è soltanto questo che possiamo fare? No, perché a parità di evento, quell'evento può essere percepito in modo diverso da due cani diversi o dallo stesso cane se cresce. Quindi lo sviluppo di particolari capacità cognitive, il cambiamento di convinzione da parte di un cane, è anche questo un programma antistress. Bene, fantastico. Ricordatevi, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Adesso io ti devo raccontare, perché ho letto una notizia sconvolgente, la notizia in sé, perché purtroppo d'estate capita spesso. Però nello stesso tempo mi è piaciuta molto la reazione di questo poliziotto americano verso una signora che era andata al supermercato e in piena estate ha lasciato il suo cane chiuso in macchina, fra l'altro anche con i finestrini spenti, chiusi. Calcola che qui ci troviamo a Cleveland. E devo dire che questo poliziotto è stato geniale, perché ha deciso di usare un metodo preciso per far capire alla padrona di questo cane l'esperienza che aveva vissuto il cane stesso. Perché mentre una ragazza passeggiava per il supermercato, per il parcheggio di questo supermercato, in un secondo ha deciso di chiamare la polizia, perché ha visto questo cane poverino che iniziava a far fatica a respirare dal caldo lasciato dentro. E quindi è arrivato il poliziotto di corsa? I poliziotti sono arrivati di corsa, e mentre arrivavano i poliziotti stava uscendo la signora al supermercato, che si giustificava dicendo: no, ma lo vede, il mio cane sta bene, non è successo niente. Lui gli ha detto: guarda, a me non interessa, adesso io la metto dentro la macchina con i finestrini chiusi e ce la lascio lì qualche minuto. No, veramente? Sì, veramente. Ma è un grande sto poliziotto. Ma chi è? Io allora l'ha lasciata lì. Lei, quando è uscita, dice: beh, ovviamente è scesa in buonissime condizioni, però era un pochino scossa dall'avventura appena vissuta, perché ha detto che si è effettivamente resa conto dello stato d'animo che provava il suo cane dentro lì. Lui le ha detto: guardi, io adesso non le faccio la multa, se la becco una seconda volta la rimetto in carcere. Calcola che lasciare il cane, veramente, a tutti quelli che ci ascoltano, d'estate, con i finestrini anche poco aperti, purtroppo la macchina, stando sotto il sole, si triplica il calore che c'è dentro. Può venire il famoso colpo di calore e portare addirittura l'animale alla morte per una lenta asfissia. Quindi ci raccomandiamo poliziotto è geniale. A proposito di Think Dog, chiedimi se sono felice, cioè il mondo dalla prospettiva del cane, lui gli ha fatto provare, gli ha fatto provare a questa signora proprio l'esperienza del cane, questa volta drammatica, però le è servito. Sì, infatti speriamo che sia servito. Mi raccomando, chi ci ascolta, non lasciate i cani. Se viaggiate, portateli, portate da bere. A proposito di viaggi, cani a casa, la maggior parte delle persone, le persone che non hanno animali, spesso arrivano a casa di chi, come noi, abbiamo i cani, e ogni tanto storcono il naso perché dicono: ti sento odore di cane, odore di cane. E voglio l'odore dell'Arbor Magique. No. Io ho trovato, a proposito, anche l'articolo di prima del poliziotto di Cleveland americano, trovo su questo sito che a me piace molto, che si chiama Greenstyle.it, certo. E ci sono un sacco di notizie interessanti. La cosa che a me è piaciuta di più era come rimediare con il fai da te all'odore che lasciano ogni tanto gli animali, qualunque tipo di animale in casa: il cane, il gatto, i canarini, i conigli, le caviette, qualunque cosa. E la cosa che a me piace molto, perché a casa mia io dico: vabbè, basta tenere pulito. Sì, poi noi con Jean-Pierre, che poverino è disabile, è ancora un pochino più complicato. Però ci sono tutta una serie di cose da fare. Degli accorgimenti. Esatto. Per quanto riguarda il cane, intanto usare tutte cose naturali. Ma io ho scoperto una cosa fantastica leggendo questo articolo. Allora, per quanto riguarda il cane, prima cosa: dopo che hanno mangiato i cani, pulire immediatamente la ciotola delle crocchette, anche se sono quelle secche, perché se le lasci lì, soprattutto quando inizia la stagione calda, l'odore si sente di più. Se la lasci quando è quella umida diventa secca e fa un po' schifo. Ma anche la ciotola dell'acqua, 2-3 volte al giorno cambiargli l'acqua, cambiato, perché comunque ristagna un po' e perché comunque fa il calcare, non va bene. Nel frattempo c'è Euphoria che si stira, passeggia. Sai che mi hai fatto venire in mente una scena raccapricciante. Il primo campo d'addestramento dove andavo a fare pratica io, ed era un campo d'addestramento metodi coercitivi, aveva un cane dietro che poteva bere da un secchio. Questo secchio era pieno di muffaco, cioè delle robe allucinanti, perché tanto è un cane, no? Vabbè, andiamo avanti. Senti, altra cosa, si può pulire con il classico rimedio dell'aceto, usare o solo detersivi neutri o eventualmente il sapone di Marsiglia, però bisogna pulire la copertina dove sta, sbatterla almeno tutti i giorni e lavarla almeno una volta a settimana, la cuccia stessa roba, sbatterla dei peli. Ma la cosa fantastica per togliere soprattutto l'odore di cane, se si sente, se è bagnato, quando torna a casa la passeggiata che è bagnato, dicono di utilizzare il bicarbonato. Se tu metti una bacinella con un pochino di bicarbonato, se ci sono i gatti bisogna metterla in alto perché il gatto salta dappertutto, certo, e non va bevuta per i cani, però sembra che il bicarbonato con un po' d'acqua assorba tantissimo gli odori. Per quanto riguarda, non ci avevo mai pensato a metterlo nell'acqua. Io, di solito noi cinofili facciamo acqua e aceto, no? Quindi si bagna uno straccetto e si pulisce il mantello del cane così. Sì, invece per quanto riguarda i gatti la cosa più importante è pulire la lettiera famosa, non cambiando tutta la sabbia ma prendendo la sabbia quella giusta che fa le palline e poi si tolgono con una palettina bucata. Per quanto riguarda invece conigli, cricetti e cavi, è fondamentale la pulizia frequente del fondo della gabbietta, che si bisognerebbe metterci uno strato assorbente come tipo di paglia o di pellets, molto, che così tolgono gli odori. Detto questo, prego. In mezzo litro d'acqua aggiungere 1 o 2 cucchiai di aceto, quindi qualche goccia di essenza di limone, se non c'è l'essenza di limone il tea tree oil che fa benissimo, e questo si lascia lì e fa benissimo per le qualità olfattive degli animali e tiene anche lontani gli insetti, i piccoli parassiti. Se no, come vi dicevo, posizionare una piccola ciotola con qualche cucchiaio di bicarbonato, mettere in alto, va come mi è appassionata la Rosetta. A proposito di animali piccoli, vogliamo smettere di trattare i cani, i chihuahua, come dei criceti soltanto perché sono piccoli? Appunto. O come dei gatti? Esatto. Allora sentiamo, abbiamo in linea un educatore cinofilo, proprietario di cani, che si chiama Atos Saul. Pronto? Ciao Angelo, ciao Rosita. Ciao, buongiorno. Atos. Atos, ma tu sei un arlista? Certo che sì. E vai, Io non so se uno si... Allora, vi rendete conto, un omone con l'Harley e il chihuahua, che è una coppia... È avanti. È avantissimo, anche secondo me. Ma come nasce questa passione, Atos? Ma guarda, questa passione nasce 10 anni fa grazie alla mia attuale compagna, che ha avuto la brillante idea di portarsi a casa uno scricciolo, un chihuahua di 2 mesi allora, e da quel momento sono innamorato. È stato amore folle. Senti, ma tu che ne pensi di quelli che si portano il chihuahua nella borsetta e lo cambiano ogni 2x3 come Paris Hilton? Beh, è comodo portarsi nella borsetta, è sbagliatissimo, e chi li cambia... Io tralascio i commenti su di lei, non mi piace. Ma tanto li ho fatti io, guarda, tu non li fare, li faccio tutti io. Va bene. Quali indicazioni possiamo dare? Tanto tutto più mi querelano. Il chihuahua è un cane che oggi viene adottato spesso, no? Ma quali sono i consigli? Cioè, tu da operatore, da persona che vive con il chihuahua, appassionato da così tanto tempo, tu ne hai 5 mi sembra, no? 5, sì. Ma quali consigli ti senti dare alla signora che dice adesso vado ad adottarmi un chihuahua? Cioè, che cosa che deve assolutamente sapere? Sapere innanzitutto che è un cane, ecco. E non è un cane da borsetta, non è un peluche, non può stare tutto il giorno in casa come i gatti. Come i gatti, esatto. Sì, ma quindi allora che cosa stai cercando, Rosita? Ti vedo. Sono disperata. Vai, andate avanti, vi sto seguendo. No. Quindi la persona che prende il chihuahua non deve farlo vivere come un gatto, praticamente in casa, che non esce mai, gli fa fare la pipì sulla traversina, che sono gli errori che fanno normalmente le persone che hanno i cani piccoli. Poi escono, invece di farli camminare per terra, li mettono in una borsa. Insomma, però questo può talvolta, quando c'è la folla, può essere giustificato dal fatto che magari non si vede il cane, può essere calpestato. Certo, in mezzo a molta gente anch'io. Certo, è normale. Nel marasma la sollevo, più che altro per non fargli schiacciare Ma tu da proprietario di 5 Chihuahua però ci dici che a parte la situazione particolare come quella della folla, sono cani che possono tranquillamente andare al guinzaglio per terra e fare la vita da cane. Assolutamente sì. Anzi che devono farla poi alla fine, perché sennò... Fra l'altro è il mio Chihuahua che si è innamorato della tua, no? Esatto, esatto. Senti, come te la cavi con socializzazione cane-cane? Perché una delle cose che preoccupa i proprietari di cani piccoli è l'incontro con gli altri cani. Cosa succede ai tuoi? Ma guarda, i miei sono ben socializzati, non tutti, uno è un po' particolare, è molto pauroso, però non è mai successo niente. Io attualmente ho la mia cagnolina in calore, sì, che si rapporta con cani anche di grossa taglia senza problemi. Ci vuole un occhio di riguardo, ci vuole molta attenzione, perché la differenza, soprattutto se la differenza di taglia è grossa, è evidente, però comunicano. Quindi, ricapitolando, non devono essere trattati come bambini, perché non sono dei bambini, hanno dei bisogni diversi, quindi devono uscire, socializzare, essere portati fuori, via dicendo, non devono stare in casa e non fare la pipì, cioè, piuttosto che farli stare in casa e fare la pipì sulla traversina, li portiamo fuori e in modo che possano sporcare fuori. Bisogna stare attenti perché hanno la fontanella del cranio sempre aperta. Sempre aperta, quindi occhio ai bambini, mai lasciarli da soli con i bambini. E non è che perché sono cani piccoli... Il cane meno adatto per i bambini. Esatto, esatto. Vedi, perché i bambini anche senza volerlo possono fargli male. Atos, sei stato preziosissimo, grazie infinite. Buone corse, buone passeggiate con l'Harley. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Beh, vedi, insomma, Harley Davidson. Adesso io il Chihuahua ce l'ho, a me manca l'Harley Davidson. Il mio compleanno è febbraio. Ma ci penso io. Bravo. Ma ci mancherebbe, ma scusami. Volevo farti una sorpresa, mi hai tolto purtroppo il... Allora, io volevo consigliare, sai che noi poi diamo sempre dei consigli, no? Uh-huh. Volevo consigliare un docufilm che ho visto un po' di tempo fa, che fra l'altro ha vinto anche dei festival, che è molto bello. Denali o Denali, adesso Denali, bellissimo, Denali, bellissimo. Che è la storia di questo cane con il suo padrone, e dura veramente poco più di 7 minuti. Sembra che abbia vinto dei premi, ha vinto dicendo un sacco di premi, e quest'anno proprio. Ed è raccontato dal cane, in realtà, la voce narrante, la voce del cane. È quella del cane. È solamente in inglese, però, almeno io l'ho visto solamente in inglese, non so se l'hanno fatto i sottotitoli tradotti in italiano, ma poi è la particolarità facile. È che il cane racconta di quando il proprietario ha avuto un cancro, gli è stato vicino, poi invece è il contrario. In regia Guido, questa la voglio dire a tutti i nostri ascoltatori, miliardi di Radio 24, che ha detto che è in inglese perché il cane è inglese. Su questa ci vorrebbe una sigletta. Volevo però dirvi una frase bellissima di questo film, che dice, che il cane dice sul finale: quando qualcuno che ami giunge attraverso la porta, anche se capita 5 volte al giorno, sarebbe bello accoglierlo tutte le volte con la stessa folle gioia. Bellissimo. Quando i cani ci insegnano a vivere. Sì. I libri che vogliamo consigliare oggi, che è uno che mi hai consigliato tu tempo fa, non so perché me l'hai consigliato, perché io non sono disordinata. Okay. Anzi, te lo dovresti rileggere, per esempio, tu. Ma infatti io apposta per quello l'ho letto. Manuale di pulizia di un monaco buddista. Bellissimo. Leggi il sottotitolo, perché io leggerei il sottotitolo, ma secondo me mi ha fregato il telefonino dove c'era scritto il sottotitolo. Faccio una parafrasi del sottotitolo, che dice che tu, quando pulisci un ambiente, è come se pulissi anche l'anima, no? Quindi togli la polvere anche dall'anima. Era molto bello questa cosa qua. Oppure un altro libro che hai consigliato tu. Beh, allora, I Santi e gli Animali, l'Eden Ritrovato, di Guidalberto Bormolini, libreria editrice fiorentina. Molto, molto interessante. Tanto spazia non soltanto nella religione cattolica, quindi santi della religione cattolica, ma anche di altre culture. Ci fa recuperare il senso del sacro. Fantastico. Beh, allora, anche oggi è stata una puntata deliziosa, meravigliosa. Io stessa scopro sempre delle cose nuove. Chissà chi ci ascolta, come sarà contento. Bellissimo. È stato un piacere stare con voi. Scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Da Angelo Vaira e Rosita Celentano. Ciao!